ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. La sera dopo il funerale, Catherine e io eravamo in biblioteca. Ora, tutte assorte nel pensiero triste e per una di noi disperato della nostra perdita. Ora, facendo congetture sul futuro cupo che ci aspettava. Eravamo appena arrivate alla conclusione che la sorte migliore che potesse capitare a Catherine sarebbe stata quella di ottenere il permesso di vivere alla Grange, perlomeno finché Linton era vivo, e che a lui fosse concesso di raggiungerla e a me di restare in qualità di governante. Sembrava una soluzione fin troppo favorevole per poterci sperare, eppure io ci speravo e stavo cominciando a tirarmi su di morale alla prospettiva di avere ancora la mia casa e il mio lavoro e soprattutto la mia amata padroncina, quando un domestico entrò precipitosamente e disse che quel diavolo di Heathcliff stava attraversando il cortile. Lui entrò senza cerimonie, non bussò né si annunciò. Era il padrone e si concesse il privilegio da padrone di entrare senza dire una parola. «Sono venuto per portarti a casa, Catherine», disse, «e spero che sarai una figlia rispettosa e che non incoraggerai più mio figlio a disobbedirmi. Credo che spesso mi veda anche se non ci sono. Ayrton dice che di notte si sveglia e grida per ore e che ti chiama per proteggerlo da me. Quindi, che ti piaccia o meno il tuo prezioso compagno, devi venire a occuparti di lui. Io te lo affido completamente». «Perché non lasciare che Catherine rimanga qui?» chiesi io, «e mandare da lei il signorino Linton. Visto che lei non sopporta nessuno dei due, non ne sentirebbe la mancanza». «Sto cercando un inquilino per la Grange», rispose, «e voglio che i miei figli stiano con me per sicurezza. Ma poi quella ragazza deve guadagnarsi il pane che mangia. Non ho intenzione di mantenerla nell'ozio e nel lusso, dopo che Linton se ne sarà andato». «Va bene», disse Catherine. «Linton è tutto quello che mi resta da amare al mondo. E benché lei abbia fatto tutto quello che poteva per rendermelo odioso, e io a lui, non riuscirà a farci odiare a vicenda. Io la sfido a fargli del male in mia presenza e la sfido a farmi paura». «Senti come fa la voce grossa la nostra eroina», rispose Heathcliff. «Ma io non ti voglio abbastanza bene per far del male a lui. Voglio che tu ti godi il tuo tormento finché dura». «Lo so che ha un'indole cattiva», disse Catherine. «È suo figlio. Ma per fortuna la mia è migliore e posso perdonare. So che mi ama e per questo motivo lo amo. Mio caro signor Heathcliff, lei non è amato da nessuno e per quanto infelici possa renderci, la nostra vendetta starà nel sapere che la sua crudeltà nasce da una sofferenza più grande della nostra. Perché lei soffre, non è vero? È solo come il diavolo e pieno di invidia come lui. A lei nessuno la ama. Per la sua morte non piangerà nessuno. Io non vorrei essere lei». E si ritirò con disprezzo. In sua assenza supplicai Heathcliff perché mi lasciasse prendere il posto di Zilla a Cime tempestose, offrendomi di lasciare il mio a lei, ma non ne volle sapere. Mi disse di stare zitta. E poi, per la prima volta, si concesse un'occhiata attorno alla stanza e uno sguardo ai ritratti. Dopo aver osservato quello della signora Linton, disse: «Voglio dirti quello che ho fatto ieri, Nelly. Ho fatto spalare via la terra dalla sua bara, dal becchino, mentre lui stava scavando la tomba di Linton, e l'ho aperta. Quando ho rivisto il suo viso, è ancora il suo. Ho pensato per un momento di restare lì con lei. Il becchino ha faticato a tirarmi via. Mi ha detto che il contatto con l'aria l'avrebbe alterato, perciò ho ricoperto la bara. Ma prima ho allentato un asse laterale, non dal lato di Linton, il maledetto, e ho corrotto il becchino perché la tolga quando verrò sepolto anch'io e ne tolga una anche dalla mia bara. Così sarà fatto. E quando un giorno le ossa di Linton raggiungeranno le nostre nella terra, non potrà distinguerci l'uno dall'altro». «Ha fatto una cosa terribile, signor Heathcliff», esclamai. «Non si vergogna a disturbare i morti. E se lei fosse stata già dissolta nella terra, o peggio, che cosa avrebbe sognato allora? Chiesi. Di dissolvermi con lei e di essere ancora più felice, rispose. Pensi forse che abbia paura di una trasformazione del genere? Me l'aspettavo quando ho alzato il coperchio. Ma sono contento che non cominci finché non potrò condividerla con lei. E poi, se non avessi potuto vedere chiaramente i suoi lineamenti distesi e calmi, quella strana sensazione non se ne sarebbe andata. È cominciata in modo bizzarro. Come sai, quando è morta ero fuori di me. E da un'alba all'altra, eternamente, la pregavo di tornare da me, in spirito. Ho molta fede negli spiriti. Sono certo che esistono e sono fra noi. Il giorno della sua sepoltura nevicava. La sera sono andato al cimitero. Soffiava un vento freddo, invernale. Tutto intorno non c'era anima viva. Ero solo e sapevo che fra noi non c'erano che 2 metri di terra smossa. Così dissi a me stesso: la prenderò tra le braccia ancora una volta. Se è fredda, penserò che è questo vento del nord che mi gela. Se è immobile, penserò che dorme. Presi una vanga dal ripostiglio degli attrezzi e cominciai a scavare con tutte le mie forze finché urtai contro la bara. Mi misi a lavorare con le mani allora. Il legno cominciò a cedere attorno alle viti. Stavo per raggiungere quello che cercavo quando mi parve di sentire un sospiro, come di qualcuno che stava sopra, sul bordo della tomba, e si chinava su di me. «Se solo riesco a togliere questo», mormorai, «che ci coprono pure di terra tutti e due», e mi diedi da fare ancora più disperatamente. Ci fu un altro sospiro vicino al mio orecchio. Mi parve di sentire il soffio caldo in mezzo a quel vento carico di nevischio. Sapevo che vicino a me non c'era nessuna creatura viva, ma con la stessa certezza con cui senti che un corpo solido ti si sta avvicinando nel buio, anche se non lo vedi, io sentivo che Cati era lì, non sotto di me e non sottoterra. Un'improvvisa sensazione di sollievo mi sgorgò dal cuore e mi percorse in tutte le membra. Abbandonai quella fatica angosciosa e provai un'istantanea, un'inspiegabile consolazione. La sua presenza era con me. Rimase con me mentre ricoprivo la tomba e mi condusse fino a casa. Puoi ridere se vuoi, ma ero certo che l'avrei vista là. Ero certo che lei era con me e non potevo evitare di parlarle. Quando fui a Cime Tempestose, mi guardai attorno ansiosamente. La sentivo vicina, potevo quasi vederla, ma non la vedevo. Avrei potuto sudare sangue in quel momento, tanto era doloroso il desiderio che mi tormentava, tanto era ardente la mia supplica di farsi vedere anche per un solo istante, ma non la vidi. E da allora, con maggiore o minore intensità, sono stato vittima di questa insopportabile tortura. Dal giorno che è andata via, non ho più visto la mia padroncina. Sono stata una volta a Cime Tempestose. Quando ho chiesto di lei, Joseph teneva la mano sulla porta e non mi ha lasciato entrare. Mi ha detto che la signora Linton era occupata e che il padrone non era in casa. Ho avuto qualche notizia di loro, da Zila, altrimenti non saprei nemmeno chi è vivo e chi è morto. Secondo Zila, Catherine è superba. Dalle sue parole capisco che non le piace. Al suo arrivo lassù, La mia padroncina le aveva chiesto di darle una mano, ma il signor Heathcliff le ha detto di fare il suo lavoro e lasciare che la nuora se la sbrigasse da sé. Zilla, che è una donna egoista e di vedute ristrette, ha obbedito ben volentieri. Ma circa 6 settimane fa, un po' prima che arrivasse lei, signore, ho avuto una lunga chiacchierata con Zilla, un giorno che ci siamo incontrate nella brughiera, ed ecco che cosa mi ha raccontato. La prima cosa che ha fatto la signora Heathcliff, mi ha detto, non appena arrivata a Cime Tempestose, è stata correre di sopra senza neppure salutare me e Joseph. Si è chiusa nella stanza di Linton e ci è rimasta fino alla mattina dopo. Quindi, mentre il padrone e Ayrton stavano facendo colazione, è entrata in sala e ha chiesto, tutta tremante, se si poteva mandare a chiamare il dottore perché suo cugino stava molto male. «Questo lo sappiamo», ha risposto Heathcliff, «ma la sua vita non vale un soldo e io non voglio spendere neanche un centesimo per lui. Ma io non so cosa fare», ha detto lei, «e se nessuno mi aiuta, morirà». «Esci da questa stanza», ha urlato il padrone, «e non parlarmi mai più di lui. Qui di lui non importa niente a nessuno. Se importa a te, fagli da infermiera, se no chiudilo dentro e lascialo perdere». Allora lei ha cominciato a importunare me e io le ho detto che quella peste mi aveva già dato abbastanza fastidi, che ognuno di noi aveva il proprio compito e che il suo era occuparsi di Linton. Come se la cavassero quei due insieme, non saprei. Immagino che lui non avesse pace e si lamentasse giorno e notte, e che lei potesse riposare ben poco, a giudicare dalla faccia smorta e dagli occhi cerchiati di nero che aveva. Qualche volta veniva in cucina tutta stranita e sembrava voler chiedere aiuto, ma io non avevo nessuna voglia di disobbedire al padrone. Non oso mai disobbedirgli, signora Dean, e anche se pensavo che fosse sbagliato non chiamare Kenneth, non spettava a me dare consigli o protestare, ma mi sono sempre rifiutata di immischiarmi. Infine, una notte è entrata decisa in camera mia e mi ha fatto prendere un colpo dallo spavento, dicendomi «Di al signor Heathcliff che suo figlio sta morendo, ne sono certa questa volta, alzati immediatamente e vaglielo a dire». Ho riferito al padrone il messaggio di Catherine. Lui ha bestemmiato tra sé e dopo pochi minuti è uscito con una candela accesa ed è entrato nella loro stanza. Io l'ho seguito. La signora Heathcliff sedeva al capezzale con le mani in grembo. Suo suocero ha avvicinato il lume alla faccia di Linton, l'ha guardato, l'ha toccato, poi si è voltato verso di lei. «E ora, Catherine», le ha chiesto, «che cosa provi?» Lei è rimasta muta. «Che cosa provi, Catherine?» ha ripetuto. «Lui è al sicuro e io sono libera», ha risposto lei. «Mi ha lasciata così a lungo sola a combattere contro la morte che non vedo e non sento che morte. Ecco che cosa provo, un senso di morte». Heathcliff è salito ancora una volta da lei a mostrarle il testamento di Linton. Aveva lasciato tutti i propri beni mobili e quelli che erano stati di lei a suo padre. Il poveretto era stato costretto a farlo con le buone o con le cattive nella settimana in cui lei era stata assente quando era morto lo zio. Sulle terre, essendo minorenne, non poteva dare disposizioni. Tuttavia il signor Heathcliff le ha reclamate e ottenute facendo valere i diritti della moglie di suo figlio e i suoi, legalmente, immagino. In ogni modo Catherine, sola e senza denaro, non gliene può più contrastare il possesso. Così finì la storia della signora Dean. A dispetto della profezia del dottore, sto riprendendo rapidamente le forze e anche se è soltanto la seconda settimana di gennaio, mi riprometto fra un paio di giorni di cavalcare fino a Cime Tempestose per informare il mio padrone di casa che intendo trascorrere i prossimi 6 mesi a Londra e che se lo desidera può cercarsi un altro affittuario dopo ottobre. Non passerei qui un altro inverno nemmeno se mi pagassero. Ieri sono stato a Cime Tempestose come mi ero riproposto. La signora Dean mi ha supplicato di recapitare un biglietto alla sua padroncina e io non me la sono sentita di rifiutare. La porta principale era aperta, ma quell'inospitale cancello era chiuso. Ho suonato, richiamando Herton dalle aiole del giardino. Ha aperto e io sono entrato. È davvero il più bel campagnolo che si possa vedere, e stavolta l'ho guardato bene. Ho chiesto se il signor Heathcliff era in casa. Mi ha risposto di no, ma che sarebbe arrivato per l'ora di pranzo. Erano le 11, perciò ho annunciato la mia intenzione di fermarmi ad aspettarlo. Siamo entrati insieme. C'era Catherine, che si rendeva utile preparando delle verdure per il pranzo. Ha malapena alzato gli occhi per guardarmi e ha continuato a lavorare trascurando le più elementari regole di cortesia, come la prima volta. Non ha degnato di un cenno il mio inchino, né il mio buongiorno. Mi sono avvicinato a lei, fingendo di voler guardare il giardino. Quindi le ho lasciato cadere con destrezza, o almeno così mi è parso, il biglietto della signora Dean sulle ginocchia senza farmi vedere. Ma lei ha chiesto ad alta voce: «Che cos'è questo?» e l'ha gettato via. «Una lettera da una sua vecchia conoscente, la governante della Grange», ho risposto. Seccato che avesse smascherato la mia buona azione e temendo che lo credesse un messaggio mio. L'avrebbe raccolto ben volentieri quando le ho detto questo, ma Herton è stato più veloce di lei. L'ha preso e se l'è messo nel panciotto, dicendo che prima doveva vederlo il signor Heathcliff. A questo punto Catherine ci ha voltato le spalle in silenzio e furtivamente ha tirato fuori il fazzoletto e se lo è portato agli occhi. Suo cugino, dopo aver lottato un po' per reprimere la parte più delicata dei propri sentimenti, ha tirato fuori il biglietto e l'ha gettato a terra ai piedi di lei con la massima scortesia possibile. Catherine l'ha afferrato e letto ansiosamente. Poi mi ha fatto alcune domande sugli abitanti, umani e non, della sua casa di un tempo e con lo sguardo perso oltre le colline ha mormorato fra sé: «Mi piacerebbe tanto cavalcare con Minnie laggiù. Mi piacerebbe tanto salire con lei lassù. Ah, come sono stanca. Non ne posso più, Herton». «Signora Heathcliff», ho detto, dopo essere rimasto per un po' in silenzio, «si rende conto adesso che io la conosco? La conosco così bene che mi sembra strano che lei non voglia conversare con me». La signora Dean non si stanca mai di parlare di lei e cantarmi le sue lodi. Sarà molto delusa se torno senza niente da raccontare su di lei o da parte sua, tranne che ha ricevuto la sua lettera e non ha detto nulla. Lei ci ha pensato su e ha chiesto: «A Ellen lei sta simpatico?» «Sì, moltissimo», ho risposto senza esitazione. «Deve dirle», ha proseguito, «che risponderei alla sua lettera, ma non ho nulla per scrivere, neppure un libro da cui strappare una pagina». «Nessun libro?» ho esclamato. «Ma come può vivere qui senza libri?» «Quando li avevo leggevo sempre», ha detto Catherine. «Ma il signor Heathcliff non legge mai. Così gli è venuto in mente di distruggere i miei libri. Sono settimane che non ne vedo uno. Solo una volta, Herton, ho trovato un deposito segreto nella tua stanza. Libri latini e greci e poi dei libri di racconti e poesie. Questi li ho portati da me. Tu li hai presi su come una gazza prende su cucchiaini d'argento per il gusto di rubare e basta. A te non servono. Forse sei stato proprio tu, per invidia, a mettere in testa al signor Heathcliff di portarmi via le mie cose più preziose. Ma io li ho quasi tutti scritti nella mente e stampati nel cuore. E di questo non mi puoi derubare».